America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, oggi cominciano le riunioni della Federal Reserve, dunque ne parleremo poi domani. Chiaramente c'è sempre molta attesa. L'idea è che la Federal Reserve dia ulteriori conferme, togliendo magari un aggettivo, al fatto che i tassi di interesse resteranno su questi livelli, ma non per tempi eccessivamente lunghi. Quindi prima o poi nel corso del 2015, forse in aprile, forse in giugno, ci sarà questo giro di boa. Ma non voglio parlare oggi di economia, preferisco restare sulla tradizionale solo andata e un po' sulla cultura. Io riguardo Marinetti dico sempre che lui è stato Warhol prima che ci fosse Warhol, e quando ha lanciato il primo manifesto ha inventato un'avanguardia. Vivian Green, la curatrice del Guggenheim Museum, che ha organizzato, allestito la mostra sul futurismo che si è chiusa da poche settimane, è stata una delle mostre più importanti dell'anno qui a New York, dedicata all'arte italiana. Arte italiana, devo dire, che qui in America ha lasciato il segno. La settimana scorsa, qui a New York, sempre dedicato all'arte italiana contemporanea, c'è stato un incontro per la presentazione di un libro dedicato a 60 artisti italiani under 35, quindi sotto i 35 anni, organizzato dalla Quadriennale di Roma. Ed è venuto il presidente della Quadriennale, Yash Gavronsky, che oltre a dedicarsi adesso alla filantropia, è un grande giornalista. Buongiorno Yash. Buongiorno. Ecco, Yash è con noi qua in linea. Intanto Yash, voglio sapere a te, insomma, che atmosfera hai trovato nei confronti diciamo di questa arte italiana contemporanea. C'è notato che c'è molto interesse per l'Italia e per l'arte italiana, molto interesse, non tanta conoscenza, diciamo c'è quindi curiosità, c'è voglia di scoprire, mancano un po' gli elementi per approfondire questa conoscenza. E poi venendo qui ci si rende conto come il mondo dell'arte in Italia e negli Stati Uniti sono due mondi completamente diversi. Ecco, perché diversi, in che modo? Ma perché qui l'arte è molto più seguita, è molto più, soprattutto dai privati, cioè sia dai privati che dal pubblico. Insomma, da noi purtroppo, un po' per noncuranza, un po' per mancanza di fondi, ognuno va per conto suo. Infatti la cosa curiosa per quanto riguarda l'arte in Italia è che in questi ultimi anni, mancando i fondi pubblici, sono nati un sacco di centri, di entità autogestite, collettivi, presso le università, presso le scuole, presso le accademie. Cioè è nato come un movimento di solidarietà fra artisti. Oggi gli artisti, soprattutto in Italia, sono sempre uniti in qualche gruppo, c'è sempre qualche cosa che li unisce e che quindi li aiuta anche a sopravvivere e certe volte anche a vivere bene. Ecco, devo dire, un sintomo di queste difficoltà che ci sono in Italia, come lo raccontavi prima che iniziassimo la trasmissione, e cioè che voi siete venuti qui a presentare un libro curato da quattro persone e finanziato dalla Quadriennale, che non potendo allestire quest'anno la mostra perché non c'erano fondi, ha messo le opere di questi artisti in un libro e le ha portate. Beh, è un paradosso. Come mai non c'erano fondi per allestire la vostra mostra quadriennale, peraltro? Beh, perché, insomma, a me dispiace molto che non ci siano i fondi, però in piccola parte lo posso anche capire, perché di fronte alla grave crisi che c'è in Italia, che c'è in tutta l'Europa, ma soprattutto in Italia, è difficile esigere di trovare 2 milioni di euro per fare la quadriennale. Io ho fatto molti tentativi, molti sforzi, ma ho capito che insomma anche il governo, anche il ministero deve fare delle scelte, ma noi stiamo continuando a lottare. Adesso c'è un ritardo, la quadriennale, come dice il nome, si dovrebbe svolgere ogni 4 anni. 4 anni sono già passati, ma noi speriamo sempre di riuscire a fare questa quadriennale. Quando abbiamo presentato questo libro la settimana scorsa, questa presentazione avveniva nel New Museum, dove c'è Massimiliano Gioni, che è il curatore dell'ultima biennale, che è il curatore di questo museo. Ho girato un po' questo museo, fantastico, bellissimo. C'era una scala e anche sulla scala c'era il nome dello sponsor che aveva sponsorizzato la costruzione della scala. Il privato arriva dappertutto e viene premiato chi lo vuole dal fatto che il suo nome appare e quindi ha le sue soddisfazioni. Ecco, qualcuno dice, venendo dall'Italia, cioè, ma noi abbiamo la cultura, in America non ce l'hanno. In realtà, devo dire, secondo me la cultura è qua. Secondo te? Beh, no, noi la cultura l'abbiamo, non c'è dubbio che l'abbiamo. Il nostro problema di italiani d'Italia è che non sappiamo sfruttarla, non sappiamo utilizzarla questa cultura. Cultura, perché è l'unico vero grande patrimonio che abbiamo, che se fosse utilizzato bene, insomma è banale dirlo, lo si dice tutto il tempo, se noi sapessimo utilizzare bene i beni culturali che abbiamo non avremmo bisogno di investire in altri settori. Ecco, Yash, da alcuni decenni che vieni a New York, eri qui con Ruggero Orlando addirittura, sì, poi hai preso il suo posto. New York com'era alla fine degli anni 60, a metà degli anni 60? Era certamente meglio, vista da me, vista da noi, vista da quelli che c'erano allora, però uno poi si domanda se era meglio perché solamente perché eravamo più giovani o era meglio perché effettivamente era meglio. Ecco, quelli erano gli anni, scusami, in cui c'era anche Oriana Fallaci a New York, certo. Che scrisse a quell'epoca Penelope alla guerra, che cerca di farsi largo con questa metropoli tentacolare. Corrispondeva a quello che capitava in quegli anni? Ma al vostro ambiente? Lei era già abbastanza conosciuta, diventata famosa dopo l'intervista con Kissinger, che l'ha resa famosa, diciamo. Uh-huh. Poi l'Ayatollah Khomeini, eccetera. Ma lei aveva una cosa molto caratteristica: fatta l'intervista non cambiava logicamente mai le risposte dell'intervistato, però aveva una certa tendenza a cambiare le domande, a modificare le domande, e quello rendeva l'intervista più pepante, più aggressiva, certamente. Certo. E quello era il suo diritto, perché uno può cambiare quello che dice lui stesso o lei stessa. Noi abbiamo una puntata ogni tanto che è dedicata al biglietto di sola andata, cioè a chi prende un biglietto di sola andata e viene in America. Tu che consiglio dai a qualche giovane che magari ci sta ascoltando? Ancora di più per le condizioni in cui purtroppo si trova l'Italia, ma in ogni genere, anche se l'Italia fosse un paese florido, consiglierei sempre a tutti i giovani di muoversi, alzarsi, muoversi e andare all'estero. E l'estero migliore rimangono gli Stati Uniti, non c'è dubbio, perché si può essere anti-americani. In Italia questo sentimento antiamericano lo noto che cresce continuamente, però è il paese che ancora continua a essere fan. Nel nostro settore, certamente nel giornalismo, è un paese secondo me insuperabile, e in tante altre cose. Quindi trovo che per i giovani venire qua sia una scuola ottima. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo Yash Gavronsky ai microfoni. Yash, una canzone per i nostri ascoltatori, cosa ti viene in mente? Beh, c'era una canzone che mi piaceva molto che si chiamava 16 Tons. Tennessee Ernie Ford, 16 Tons. The left one, will you load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.